Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti operativi dal Groovemaster Studio come sempre per dare il via all'appuntamento numero 376 del nostro soundcheck. Welcome, welcome, welcome ladies and gentlemen, this is it. Ed eccoli qui, pronti come sempre, Silvia Barba e Francesco Tromba. Good evening everybody. Mamma mia, che programma internazionale stasera. Ciao a tutti. Ecco, e torniamo subito alla realtà così. Dai, facci sognare un po', Tromba. Tromba, ci devi far sognare oggi, perché oggi vogliamo anticipare, come facciamo ormai una consuetudine la nostra, quella di anticipare la notte dei Grammy Award di una settimana, tra l'altro, no? Perché la prossima settimana noi invece saremo già proiettati nel futuro alla prossima edizione, quella del 2018, perché siamo sempre in anticipo, che è una cosa che devono fare tutti i bravi musicisti, soprattutto quelli che hanno un background jazz, lavorare in anticipo. E lo faremo oggi anticipando gli artisti che noi vi abbiamo presentato nel corso degli ultimi due anni, quelli che si sono già aggiudicati la nominations e che rischiano di avvalorare ancora di più le nostre tesi, ovvero puntare alla qualità. E tra l'altro con delle novità importanti, perché se la Academy Recording, che è, come dire, questa sorta di simposio dei discografici e delle grandi personalità dello show business musicale americano, negli ultimi anni portavano al successo ai Grammy Award comunque musicisti e artisti di chiara fama con un successo discografico alle spalle, quest'anno probabilmente le cose cambieranno, perché abbiamo un artista del quale noi vi abbiamo parlato tante volte che arriva ai Grammy Award assolutamente da indipendente, senza neanche aver prodotto un album, o meglio realizzato un album fisico, quindi soltanto con la distribuzione digitale. Ma probabilmente, se avrà successo ai Grammy Award, esploderà, così come poi sono esplosi i grandi artisti dei quali parliamo qui al Soundcheck. Dopo questa lunga premessa, madame e messie, ladies and gentlemen, lascio la parola agli esperti dei Grammy Award per raccontarci di cosa stiamo parlando. Intanto lasciatemi soltanto anticipare che i Grammy Award, la premiazione, si svolgerà il 12 febbraio, quindi domenica della prossima settimana, come sempre allo Staples Center di Los Angeles in California. Sì, volevo aggiungere solamente che sono più di 100 le categorie che verranno premiate. Ovviamente le più importanti sono Best Record dell'anno, Best Nuovo Talento, e i migliori dischi, però vengono premiati anche i tecnici, esatto, cioè gli ingegneri del suono, i producer, chi fa le copertine, chi insomma lavora sulle colonne sonore delle musiche da film. È un premio molto importante, un riconoscimento importante, proprio perché appunto riconosce l'industria musicale e discografica americana. Naturalmente, quindi, il programma televisivo che viene realizzato durante la premiazione dei Grammy Awards prevede soltanto la consegna dei premi, certo, ad alcune categorie, forse le più importanti, quelle più pop, quelle più seguite. Poi naturalmente, compreso la categoria che a noi piace, che ne so, la musica jazz, fino a arrivare alla premiazione del miglior ingegnere del suono, allora tutto quello non andrà mai in onda e leggeremo quindi chi saranno i vincitori soltanto il giorno dopo o la notte stessa dopo la premiazione con i comunicati stampa. Certo, altrimenti la cerimonia durerebbe 6 giorni. Ma infatti quanto dura la premiazione dei Grammy Award, tutta dall'inizio alla fine? Dura tantissimo, parte dal pomeriggio, arriva fino a sera. Allora, dicevamo, per dare subito il via alla musica, parlavamo di un artista che ha avuto quante nominations, ragazzi? 6-7 nominations? 7 nominations. Un artista non se l'aspettava nessuno. Tra l'altro, io lo dicevo e Tromba, e invece mi dice: no, ma sai, perché un disco indipendente probabilmente non avrà mai i Grammy Awards. Ecco qui, Tromba, tu ti devi fidare dell'esperienza, troppa esperienza. No, finora non era mai successo, quindi le probabilità erano comunque poche. E quindi siamo contenti noi. Assolutamente contentissimi. Significa che anche un artista giovane emergente che pubblica la sua musica esclusivamente su Bandcamp può approdare ai Grammy Award, è una grandissima cosa. O no? È storia. E la storia la farà quest'anno un signore fortissimo, simpaticissimo, e noi tifiamo per lui. Da Chicago, ladies and gentlemen, arriva Chance the Rapper. Coloring Book, il titolo dell'album di Chance the Rapper. Per ora lo troverete soltanto ed esclusivamente in internet, quindi potrete fare il download anche su iTunes, lo trovate su Spotify, ma certamente non è stato ancora stampato fisicamente il CD, forse l'album in vinile lo avrà fatto personalmente lui, da rapper e anche da bravo performer come disc jockey, ma sta facendo dei concerti favolosi, e tra l'altro noi l'abbiamo visto in azione con un bellissimo coro gospel guardando il nostro programma TV preferito fra quelli americani, che è il Tonight Show di Jimmy Fallon. Beh sì, lui è candidato in categorie molto importanti, appunto come Best Rap Performance, come Best Rap Album, appunto con Coloring Book, e come Best Rap Song anche in collaborazione con Kanye West e con altri artisti. Devo dire che lui, essendo di Chicago, era anche di casa, appunto alla Casa Bianca, perché è molto amico di Obama, ha partecipato a tante manifestazioni proprio perché Obama ospitava tantissimo questi nuovi artisti e nuovi talenti, e lui ormai era un amico del presidente. Certo, hai capito, Tromba, come stanno le cose? Il presidente Obama se la faceva con Questlove dei Roots e Chance the Rapper, uscivano insieme e andavano a cena. Infatti non so se hai letto che il proprietario di Spotify ha proposto di diventare il curatore delle playlist di Spotify, ha offerto a questo Obama? Lavoro, sì, visto che comunque certo. Adesso è disoccupato. Ma scusa, perché non lo chiami? Gli proponiamo un'intervista a Obama. Tanto adesso è un comune cittadino, forse ci possiamo arrivare, no? Ci provo, magari ci rispondo. Se ha intervistato Jacob Collier, puoi intervistare anche Obama. Certo. Ormai. Come DJ, no? Sì, assolutamente. Va bene, allora andiamo ancora a Chance the Rapper. Il brano si intitola Finish Line e qui si sente il background proprio di un ragazzo, casa e chiesa. Un ragazzo che ha frequentato la chiesa, un ragazzo che ha il gospel nelle vene e tra l'altro scrive testi bellissimi. Qui con lui c'è un campione come Kirk Franklin. Soundcheck. Il suono della musica. E questo, un altro campione contemporaneo, si chiama Anderson Paak, ne abbiamo parlato più volte, album per lui intitolato Malibu, e si ritrova Anderson Paak a competere con il suo collega Chance the Rapper nella categoria miglior artista esordiente alla consegna dei prossimi Grammy Award. Anche per Anderson Paak una doppia nomination, perché si ritrova anche in una categoria importantissima, ma lì difficilmente potrà vincere perché deve competere con i colossi della discografia nera americana, ovvero miglior album contemporary R&B, Urban, che cos'è? Urban Contemporary, e là ci sono pezzi da 90. Comunque Anderson Paak è uno dei nostri preferiti, una storia veramente forte, noi ci siamo divertiti molte volte a raccontare la storia di questo signore che ha un sangue già particolare, no? Una discendenza, c'è qualcosa di orientale. È un bel mix, tra l'altro lui la West Coast ha premiato sempre, perché ha sempre ribadito questa sua appartenenza alla West Coast, alla California. I suoi album si chiamavano appunto con nomi californiani, non ultimo Malibu, e tra l'altro la sua storia che noi abbiamo raccontato, voglio ricordare, già due anni fa l'abbiamo detto, tu l'hai scovato, non sì, so la storia di questo ragazzo appassionato di musica che per lavorare entrò in una farm di medical marijuana, esatto, no? Poi ci fu, che cosa, un fallimento, chiusero, lui fu licenziato e per un anno circa, insieme alla sua compagna e al suo bambino appena nato, ha vissuto come sotto i ponti, nel vero senso della parola. Un clochard. E poi è esploso, no? Lo vogliono tutti Anderson Paak. Sì, adesso faceva dei turni in uno studio di registrazione e ha cominciato poi a produrre la sua musica e ha avuto il successo che meritava, evidentemente. Visto che finora non ho polemizzato su nulla, allora, cioè, inserire Anderson .Paak e Chance the Rapper come miglior artista esordiente, su questo andrebbe rimproverata l'Academy, perché voglio dire, hanno fatto già 3 dischi ciascuno, quindi sì, ma se noi dall'Italia ne parliamo già da 2 anni, abbiamo iniziato 2 anni fa a parlare di questi ragazzi. Sì, forse diciamo Chance the Rapper ovviamente è stato penalizzato non avendo dietro un'etichetta discografica importante, perché avendola sicuramente avrebbe avuto maggior successo prima. Ma si rifarà, mio caro Tromba, vedrai che quest'anno con 7 nomination qualche premio lo porta a casa, e non è come da noi, no? Una volta quando si vinceva il Festival di Sanremo cambiavano le carriere, la vita di un artista, come dire, veniva rivoluzionata completamente con Sanremo. Con i Grammy Award veramente ti cambia la storia proprio. Si cambia proprio anche il conto in banca. Assolutamente perché l'indotto che ti crea da quando vinci in poi è veramente impressionante. Allora, c'è un'altra categoria molto interessante per noi, che è migliore interpretazione R&B, Best R&B Performance. E stiamo parlando di performance discografiche, quindi performance in studio, che poi ci ritroviamo nei dischi, quindi non parliamo di live, di concerti dal vivo. E in questa categoria se la battono anche dei signori che noi abbiamo trattato più volte. C'è la bellissima Solange, che piace tantissimo al Tromba, con Cranes in the Sky, Rihanna con Needed Me. Noi non la passiamo Rihanna perché la passano gli altri, no? Perché dovremmo passare Rihanna? Sì, giusto? Un po' troppo pop. Troppo pop per noi. Roe James con Permission, e poi eccoli qui, BJ the Chicago Kid con Turning Me Up e Music Soul Child. Chi vogliamo passare prima? Music Soul Child? Sì, sì. Allora, lui ha avuto la nomination con I Do, ma il brano che a me piace di più è questo intitolato Far Gone, con la partecipazione di Rhapsody. Music Soul Child al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. E questa è la dimostrazione che a Chicago la musica la fanno bene e stanno sul pezzo. Ecco, quindi non soltanto il blues di Chicago, il jazz di Chicago, ma c'è anche l'R&B, l'hip hop, il rap che arriva da quella città favolosa. Per me è una delle più belle degli Stati Uniti, bellissima, anche se in questo momento è quotata anche come una delle città più violente degli Stati Uniti. BJ, the Chicago Kid con Turning Me Up dall'album In My Mind, anche lui presente nella categoria Best R&B Performance insieme a Music Soul Child. Siete stati a Chicago? Sì, 3 volte. Ti è piaciuta? Moltissimo. Ti piace più Chicago o New York? Questa è una domanda che non devi mai fare. Sì, perché tu a New York no, io a hai Chicago, tanti amici. No, ecco. A Chicago ho la famiglia, ho dei cugini molto vicini, per cui vado spesso. Sono stata sia d'estate che d'inverno un freddo che non si può spiegare. Un vento che ti stacca le orecchie. Esatto, ma anche a novembre, quando invece già a New York si poteva ancora stare tranquillamente, però si sta bene. Architettonicamente è una città bellissima, ci sono dei posti meravigliosi. E la gente è forte. Esatto, dai. Esatto. La e poi gente sono stata sorridente a sentire il blues vero, per cui mi sono molto divertita. Tromba, allora parliamo di Chicago, che ne dici? Perché c'è un bel movimento da quelle parti, anche No Name, no? Che noi abbiamo presentato più volte, della scuderia di Chance the Rapper, sta andando molto bene. Sì, è proprio terra di rapper, partendo da Common in poi, veramente ogni anno esce un nome nuovo e pieno di talento, assolutamente. E questo probabilmente anche perché c'è un bel movimento politico e anche culturale. È culturale, vero? Succede questo. Allora, ci spostiamo invece a una voce femminile, finalmente. Parliamo di Solange. Solange l'abbiamo presentata anche la settimana scorsa, no? La sorella minore della bellissima Beyoncé. E tra l'altro non possiamo non citare Beyoncé, perché è lei che si presenta al Grammy Award di questa edizione con quante nominations? 9, diciamo. 9 che nominations. Probabilmente sarà la Kendrick Lamar dell'anno scorso. Ah, la nomination anche come una delle donne più belle del reame? Sicuramente. Può battere tutti i record come miglior artista che vince più Grammy nella storia dei Grammy Awards. Tra l'altro mi ricordo, c'è quella immagine bellissima di Chance the Rapper che sta facendo un'intervista con Beyoncé sé che gli passa dietro e gli dà una pacca sulla spalla, e Chance the Rapper si gira, e quando scopre che Beyoncé fa un salto di un metro e mezzo come un gatto che si ritrova un molosso alle spalle. Meravigliosa. Allora, Solange con Cranes in the Sky, anche lei per migliore interpretazione R&B, best R&B performance qui al Soundcheck. Facciamo una pausa, arriva l'informazione di Radio 24 e poi andiamo avanti con i Grammy Award 2017. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci dopo l'informazione di Radio 24 qui dal Groovemaster Studio con Silvia Barba, Francesco Tromba e Gigi Telesforo per raccontarvi le nominations più interessanti, perlomeno per noi del Soundcheck, alla consegna dei prossimi Grammy Awards 2017, consegna che avverrà allo Staples Center di Los Angeles domenica della prossima settimana, che cos'è? 12 febbraio. Esatto, in diretta sulla CBS. Ecco, siccome noi lavoriamo in anticipo, ne parliamo adesso, perché poi sabato e domenica della prossima settimana è in programma altre cose per noi. Tu già stai avanti. Sto avanti ragazzi, bisogna correre. Allora, c'è una categoria molto importante che è quella del miglior album Urban Contemporary. Abbiamo già raccontato che il nostro amico Anderson .Paak, nostro amico, non so se avete notato, certo, ormai è il nostro amico Anderson .Paak con l'album Malibu si ritrova in questa categoria, ma non si sa se riuscirà a strappare il titolo a un pezzo da 90 come Beyoncé, ma anche a Gallant con Ology, oppure a Rihanna con Anti, oppure alle King con We Are King, trio al femminile, le sorelle King, quelle che io ho proposto al Soundcheck combattendo anche contro il vostro gusto personale, perché a me l'album non è dispiaciuto e soprattutto c'è quel brano Supernatural che mi ha aperto la mentalità. Ma tu forse sei membro della Record Academy? Recording Academy. Che significa? Perché se ne sono accorti anche loro che è un album uscito alla fine del 2015 e quindi può partecipare. Può partecipare. Ecco, Tromba, raccontaci le modalità. Sì, perché possono partecipare tutti gli album che sono stati pubblicati dall'ottobre dell'anno precedente, cioè dall'ottobre del 2015 fino al settembre del 2016. 2016. Esatto. Ecco, allora, quindi può capitare che magari tu con un album pubblicato nel 2015 vinca... Novembre 2015. Sì, vinca il Grammy nel 2016. E in qualche modo forse sei anche avvantaggiato, perché hai avuto più tempo per promuoverlo e per vendere copie, cosa... della quale poi i signori dell'Academy tengono conto, anche del successo di pubblico e discografico in quel senso. Sì, un'altra cosa da tenere conto è che non si sa esattamente quanti sono la giuria i membri dell'Academy. Un'altra cosa è che non tutti votano per tutte le categorie, nel senso che ci sono quattro categorie per cui votano tutti e poi tu puoi votare per altre 20. Quindi rimangono sei categorie per cui tu non voti, perché sono 30 generi diversi considerati, per più di 108 premi. Quanto è importante la vittoria di un Grammy Award per un artista, soprattutto esordiente? Beh, è la consacrazione, se vuoi, o anche il mettersi nella vera industria ed essere riconosciuti in questo modo da tutti, perché poi l'indotto che porta alla vincita di un Grammy Award, secondo me, è veramente incommensurabile, non solo da un punto di vista appunto promozionale, ma proprio di vendite e di concerti, perché poi io credo che da questo momento in poi chi viene solamente nominato, perché già la nomination secondo me è un grandissimo traguardo, non dico vincerlo, può portare davvero a tanti concerti e quindi alla promozione effettiva, che è poi quello a cui interessano più gli artisti. Però ce ne sono altri, ci sono polemiche negli Stati Uniti che per esempio non hanno mai vinto un Grammy Award e che invece hanno avuto un successo straordinario. Tipo i Queen, tipo Jimi Hendrix, tipo Notorious B.I.G., tipo Bob Marley. Cioè, Bob Marley non ha mai vinto, voglio dire, nella sua categoria era il numero uno, lo è ancora. Beh, ma ha stravinto con la sua carriera. Esatto. Gli Who, insomma, ce ne sono tanti che non sono stati mai considerati. Allora, io tifo per King con Supernatural qui al Soundcheck. Voi per chi tifate? Per Anderson .Paak, come sì, sempre. Per Anderson .Paak. Anderson Ma vincerà Beyoncé. Soundcheck. il suono della musica. Non ha mai ottenuto nominations con un suo album, ma ha vinto Grammy Awards per la partecipazione a produzioni discografiche importanti degli ultimi anni, come quella con Robert Glasper e gli Experiment, ma anche con gli Snarky Puppy. Vi stiamo parlando della voce splendida di Lala Hathaway, oggi una delle vocalist americane più amate, almeno da chi segue le sorti del soul e dell'R&B, una vera spada in studio di registrazione. D'altra parte è la figlia di Donny Hathaway, e invece quest'anno si ritrova una bella nomination come per la migliore interpretazione R&B tradizionale, Best Traditional R&B Performance, e c'è una bella competizione fra due amiche, due donne di grandissimo peso, spessore, con capigliature strepitose. Io me le vorrei abbracciare tutte e due, vorrei affondare proprio in questa marea di carne super soul, quella di Lala Hathaway e di Jill Scott, per questa categoria, presenti tutte e due, migliore interpretazione R&B tradizionale. Esatto, insieme a loro c'è anche BJ Chicago Kid con Woman's World, Fantasia con Sleeping with the One I Love e William Bell con The Three of Me. L'anno scorso Lala Hathaway vinse nella stessa categoria il Grammy Award come migliore interpretazione R&B tradizionale con il brano Little Ghetto Boy. Eh sì, sempre da questo album però. Questo è un live, quello di quest'anno, e qui è una cover di Anita Baker. È vero, il brano infatti è proprio questo, Angel, la versione dal vivo di Lala Hathaway. Io, secondo me, siccome l'ha vinto l'anno scorso, è difficile che possa fare il bis. Mi sa che quest'anno lo daranno a Jill Scott. A un a caso che ne ha vinti pochi poi di premi. Ma Jill Scott, ma che vuoi dire a Jill Scott? Beh, la vedi e la premi, no? È vero, subito, solo per questo. Il brano con il quale ha avuto la nomination è proprio questo, Can't Wait, qui al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Mi. Soundcheck, il suono della musica. Hanno fatto i salti di gioia alla Rope Dope Records lì a New York quando si sono ritrovati la nomination per Velvet Portraits, questo è il titolo dell'album del sassofonista Terrace Martin, che si ritrova in una categoria importante come miglior album R&B, Best R&B Album. Veramente questa è una cosa molto forte. Il nostro amico Terrace Martin si ritrova lì in alto in questa categoria insieme sempre a BJ di Chicago Kid, c'è sempre lui, Lala Hathaway, Mint Condition e Maya. Qui al Soundcheck Radio 24 vi stiamo anticipando i campioni della prossima stagione, della prossima consegna dei Grammy Awards, naturalmente celebrando un po' anche il nostro programma, perché siamo stati senz'altro fra i primi in Italia a parlarvi di alcuni artisti e a proporvi quasi in esclusiva, non perché lo abbiamo voluto, ma perché siamo gli unici a suonare alcune sonorità, certe sonorità nel nostro paese. E quindi dopo Terrace Martin, che qui abbiamo ascoltato con Push, direi di andare ad analizzare un'altra categoria molto interessante per noi, ovvero miglior album jazz vocale, Best Jazz Vocal Album. Sì, le nomination sono René Marie con Sound of Red, Branford Marsalis Quartet insieme a Kurt Elling con Upward Spiral, Gregory Porter Take Me to the Alley, e Catherine Russell con Harlan on My Mind e The Turney Sutton Band con The Sting Variations. Che dici, Tromba? Bah, secondo me i candidati principali sono Gregory Porter e Branford Marsalis Quartet. Ecco, io tifo per Branford Marsalis Quartetto con Kurt Elling. Il disco è molto bello, un disco di jazz, ne abbiamo parlato. Kurt Elling è impeccabile come sempre. Però approfitterei, prima di ascoltare Gregory Porter, approfitterei per fare i nostri complimenti e anche gli auguri per i prossimi Grammy Awards a italiani illustri che hanno preso la nomination. Non è la prima nomination per loro e probabilmente non sarà neanche il primo Grammy Awards, perché vogliamo salutare Laura Pausini, che si ritrova nella categoria miglior album pop latino, Best Latin Pop Album, e il formidabile Andrea Bocelli nella categoria miglior album pop tradizionale, Best Traditional Pop Vocal Album, insieme a dei colossi, no? Come Willie Nelson, Barbara Streisand e anche Bob Dylan. Ecco, qua voglio dire una cosa. Se l'Academy darà il Grammy Award in questa categoria a Bob Dylan, io prenderò tutti i dischi, soprattutto quelli in vinile di Bob Dylan, e li farò in mille pezzi. No, non li distruggere, li prendo io. Allora te li regalo, sì, te li regalo li però volentieri. Con degli scarabocchi terribili, no? Sulla, sulla copertina, e capirai anche perché, lo sai perché, no? Beh sì, dopo come si è comportato ai Nobel. Ai Nobel, diciamo, sì. Tu che ne pensi, Silvia? Come si è comportato questo Bob Dylan? Beh, non ha dimostrato grande gratitudine e gentilezza nei confronti di un premio davvero prestigioso. No. Figuriamoci se gli danno il Grammy, cioè lo tira dalla finestra. Tromba, diciamolo chiaramente, come si è comportato sto Bob Dylan? Malissimo, da avrebbe Dai, fatto meglio a rifiutarlo direttamente il premio Nobel. Non si sa perché, non si sa che cosa gira nella testa sì, di... Sì, lo voglio, però non mi presento, c'ho impegni. C'ho da fare, ho yoga. Non si sa, andiamo alla musica che è meglio, andiamo invece a un colosso, nel vero senso della parola, io per abbracciarlo... Ho fatto fatica per abbracciarlo, vi dico la verità, un colosso alto 2 metri, un orso, un grizzly tromba, molto simpatico, una persona adorabile, grandissima sensibilità, senz'altro preferisco Gregory Porter alla sua band, però voglio essere sincero. Come mai? Non lo so, potrebbe organizzare un organico con musicisti forse un po' più forti di quelli che si porta dietro, però insomma capisco che uno va in giro con gli amici anche, no? Che dici? Si trova bene, è un gruppo consolidato, per cui forse preferisce loro a personaggi anche più accreditati. Non lo so, è vero, non sei il primo a dirlo. Comunque il risultato è ottimo. Holding On, Gregory Porter al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Ricordo ancora che proprio con Silvia Barba abbiamo presentato l'album di Bill Frisell, dove si ritrova questo brano, questa sua versione di Moon River, composizione scritta da Harry Manzini. Mi ricordo che era una puntata dedicata alle colonne sonore. Esatto, è vero? Lui fece questo album molto apprezzato, molto elegante, devo dire, è un disco godibile proprio per questo motivo, ma Bill Frisell a questo ci ha abituato. Sì, l'album si intitola When You Wish Upon a Star, un album con il quale Bill Frisell rendeva tributo ai brani che lo hanno in qualche modo colpito durante tutta la sua carriera di appassionato di cinematografia. E quindi ci ritroviamo Bill Frisell con Moon River, brano che poi ho notato ha suonato e proposto più volte in varie versioni. Perché vi parliamo di Bill Frisell qui in chiusura del nostro soundcheck? Perché ce lo ritroviamo anche lui in una categoria, ovvero miglior album di musica contemporanea strumentale. E in questa categoria, per chiudere poi questo nostro appuntamento con il soundcheck, poi staremo a vedere, ci sono tante altre categorie, anche quella del jazz per noi interessante, con Joshua Redman, Brad Mehldau, John Scofield, ma non abbiamo più tempo, no? Quindi restiamo nella categoria Best Contemporary Instrumental Album, nella quale ci ritroviamo anche un'altra delle nostre band preferite, sono i bravissimi Snarky Puppy. Sì, che tra l'altro non sono alla loro prima nomination, hanno già vinto più di un Grammy, quindi ormai sono dei veterani. Ormai dire. Sono dei veterani, stanno andando fortissimo questi ragazzi, noi vi salutiamo, ci risentiamo comunque domani alle 19.15, sempre qui su Radio 24, e quindi a tutti voi buona serata, buona musica con gli Snarky Puppy, grazie a Francesco Tromba e a Silvia Barba. Thank you, bye, thank you. Ciao, ciao.